In Siria, oltre 40 morti, sono soprattutto impiegati che andavano a lavoro e bambini che andavano a scuola. Passera, disagio ampio, a rischio la coesione sociale, la Marcegaglia, sbloccare subito i debiti che la pubblica amministrazione ha con gli imprenditori, tema che sta strangolando le imprese. Schiaffi ai giocatori perché perdessero, arrestati tre capi ultra del Bari. Hillary Clinton senza trucco e con gli occhialoni spessi, ho l'età per decidere come voglio mostrarmi. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Una mattinata davvero particolarmente tragica, quella di oggi in Siria, e dunque ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto. Buongiorno a voi, buongiorno. Il bilancio è di 44 morti e di 180 feriti per il momento, ma forse è destinato ad aggravarsi, vista la scena spaventosa che si è presentata davanti ai nostri occhi questa mattina a Damasco. Praticamente la tangenziale che porta la strada all'aeroporto è stata spezzata a metà, decine di auto sventrate, un autotreno che è andato praticamente in frantumi, probabilmente le autobombe erano tre con circa 30 tonnellate di tritolo, quindi un'esplosione spaventosa che è avvenuta davanti a una caserma, ma in un'area dove vicino ci sono anche due scuole, e questo spiega perché ci sono tra le vittime anche degli studenti e dei bambini. Erano le 8 del mattino, l'ora in cui appunto i bambini vanno a scuola. Grazie Alberto Negri del Sole 24 Ore dalla Siria. Noi invece torniamo in Italia con le indagini sul ferimento a Genova del manager dell'Ansaldo Roberto Adinolfi. Ci aggiorna in diretta Andrea Viali. Sì, buongiorno. Sembra prendere sempre più corpo la pista terroristica nelle indagini sulla gambizzazione di Adinolfi per l'agguato al manager di Ansaldo Nucleare. Ci sarebbero anche due sospettati, una notizia questa trapelata oggi ma smentita subito dopo dai carabinieri del ROS, forse anche per non compromettere l'esito delle indagini. Comunque, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, l'attenzione degli inquirenti si starebbe concentrando su due persone che nel 2000 avrebbero provato a ricostruire una cellula terroristica con ex esponenti delle Brigate Rosse, Unione Comunisti Combattenti. I due sospettati sarebbero anche legati ad un genovese arrestato dopo un sequestro di armi che provenivano dai paesi dell'est, e in quell'occasione venne anche ritrovato un manuale di uso di una Tokarev calibro 7,62, la stessa pistola che sarebbe stata utilizzata proprio per ferire Adinolfi. Sull'agguato di Adinolfi comunque non si indaga soltanto verso il terrorismo, infatti i servizi segreti si starebbero concentrando anche sulla pista cosiddetta commerciale, quella legata cioè agli affari di Ansaldo Nucleare, sempre nei paesi dell'Europa dell'Est. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Monte dei Paschi di Siena, si è svolta questa mattina la conferenza stampa dei vertici dell'Istituto Senese. Non ero assolutamente a conoscenza di un'indagine in corso, ha precisato il nuovo presidente Alessandro Profumo, riferendosi all'inchiesta sull'acquisizione di Antonveneta. Le indagini devono essere rispettate, ha detto Profumo, ed è impossibile parlare di qualsiasi attività investigativa in corso. Come banca è nostro interesse avere la massima collaborazione e trasparenza perché tutto ciò possa essere il più breve possibile. Obiettivo è evitare che l'inchiesta rallenti l'attività del Consiglio d'amministrazione, ha concluso Profumo. Crisi economica in primo piano all'Assemblea Generale di Unindustria con la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. In diretta da Roma Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Sbloccare subito i crediti, le imprese sono strangolate, lo chiede la Presidente di Confindustria Marcegaglia, ma lo chiedono tutti gli imprenditori riuniti qui al Gran Teatro di Saxa Rubra. Quella sul credito per le imprese è diventata una questione di vita o di morte, dice il Presidente di Unindustria Aurelio Regina, che sollecita il Governo affinché assuma iniziative energiche in questo senso e dia risposte concrete agli imprenditori che si suicidano, alla rabbia che monta nei cittadini contro un fisco indifferente. Poi la sua ricetta per aumentare l'occupazione: per il numero uno di un'industria occorre destinare risparmi derivanti dalla spending review alla riduzione delle tasse per i lavoratori e per le imprese, ma occorre anche riaprire il capitolo liberalizzazione in cui il governo è stato troppo timido. Aurelio Regina ha concluso salutando commosso l'Assemblea, visto che al termine del suo mandato e che a breve affiancherà Giorgio Squinzi come vicepresidente di Confindustria Nazionale. Anche per Emma Marcegaglia questa è una delle ultime occasioni pubbliche come presidente di Confindustria. Tra poco Emma Marcegaglia prenderà la parola. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Crisi e disagio sociale anche al convegno di Rete Imprese Italia. In diretta con noi Elisabetta Fiorito. Sì, un allarme grave è quello del ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Il disagio sociale legato alla mancanza di lavoro in Italia è più ampio di quello segnalato dalle statistiche. È a rischio la tenuta economica e sociale del paese. Metà della nostra società è investita dal disagio. Monti però assicura Passera si farà sentire. Lo spazio per uscire dalla situazione c'è, dice il ministro dello sviluppo economico, ma dipenderà anche da quello che farà l'Europa, che deve smettere di parlare solo di crescita ma fare investimenti. Il ministro del welfare Fornero poi fa un parziale mea culpa sulle conseguenze della riforma delle pensioni, riforma che però secondo il ministro andava fatta. Ma sentiamo Fornero. Evidentemente c'è un problema, e continuiamo invece con quello che ha detto anche il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli. Sì, le sentiremo poi dopo le parole della Fornero e di Passera. Elisabetta Fiorito, ti ringraziamo per questo collegamento da Roma. Andiamo avanti con le notizie economiche. Boom per le partite IVA. Nello scorso mese di marzo sono state aperte 62.284 nuove partite IVA, in aumento del 7,4% rispetto a marzo 2011 e del 12,4% rispetto a un mese prima. Più della metà riguarda giovani fino ai 35 anni. E un uomo di 55 anni si è suicidato a Vaiano, in provincia di Prato. Il suo gesto è probabilmente da ricondurre a problemi di natura economica. Andiamo invece in Grecia, dove è fallisce ancora il tentativo di formazione del nuovo governo. Da Atene, l'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Vittorio. Sì, esattamente, il premier incaricato della sinistra, Alexis Tsipras, 38 anni, ha abbandonato il tentativo di formare un governo e passa quindi la mano a Venizelos, Evangelo Venizelos, che è il terzo partito rappresentato appunto all'ultimo, al voto di domenica, ed è il partito socialista. Anche Venizelos però ha poche chance di riuscire a vincere, a trovare questo rebus infinito del nuovo governo, perché il Parlamento è spaccato in due parti ben precise: chi è a favore del memorandum pro Europa e chi contro, e nessuno ha però la maggioranza. Ecco per cui il quarto tentativo si profila, che è quello istituzionale del presidente Papoulias, che tenterà ancora una volta un governo tecnico. Si fa il nome dell'economista Markenisis, che è un professore alla London School of Economics. Questa è l'ultima notizia, l'ultimo rumors che è uscito appunto dalla discussione al Palazzo Presidenziale. Nel frattempo ci sono fatti inquietanti che stanno animando il dibattito. Sì, esattamente, questa notte all'1:30 è stato malmenato Konstantinos Bogdanos, un giornalista di Sky TV, un gruppo che fa parte della stampa, diciamo così, conservatrice, perché edita anche il giornale Katimirin, e queste tre persone ancora sconosciute lo hanno aggredito ed è stato poi ricoverato il giornalista per una frattura al braccio e numerose percosse. Il problema è che sembra che lui abbia fatto lunedì una diretta TV molto esplicita contro la sinistra, contro Syriza, dicendo appunto che a questo punto il paese poteva andare fuori dall'Europa. Quindi si presuppone, alcuni sospettano appunto, che sia in qualche modo legata a questo avvenimento. Certo. Nel frattempo le agenzie dicono che c'è una nota del portavoce della Commissione europea: i 4,2 miliardi di euro sborsati oggi dal Fondo di Salvataggio Europeo alla Grecia garantiscono il fabbisogno finanziario attuale dello Stato greco. L'esborso dell'altro miliardo è legato al fabbisogno futuro. Queste le parole del portavoce della Commissione europea. E noi su questo salutiamo Vittorio Darold, grazie mille da Atene, ma restiamo nel paese, perché andiamo ad Olimpia. La Grecia oggi ha vissuto il suo momento davvero di gloria con l'accensione della fiaccola olimpica, e noi ci colleghiamo con il nostro Dario Ricci. Sì, buongiorno Pierre, in effetti poco meno di 4 ore di macchina tra Atene e Olimpia, ma sembra di essere quasi in un altro paese, perché l'accensione della fiaccola è stata anche momento di ritrovato orgoglio e speranza per la Grecia nel quadro difficile che il collega Darold ci ha descritto descritto da Atene. Quella di Olimpia è stata invece una festa, presente tutte le massime autorità del Comitato Olimpico Internazionale, a partire da Jacques Rogge e poi da Sebastian Coe, il presidente del Comitato Organizzatore di Londra 2012. Non è mancato anche il colpo a sorpresa, perché nel passaggio dal Tempio di Hera, dove il sacro fuoco è stato acceso, allo stadio di Olimpia, dove poi avrebbe acceso la fiaccola olimpica, il sacro fuoco appunto si è spento per qualche istante. Speriamo non sia un cattivo presagio per questa staffetta che ha avuto in Spiros Giannotis il campione greco di nuoto di origine britannica, il primo staffettista. Fino al 17 maggio la fiaccola olimpica rimarrà in territorio greco, poi nello stadio panatenaico di Atene, sede dei primi giochi moderni nel 1896, passerà di mano agli staffettisti britannici, che poi per poi accendere il braciere olimpico di Londra il 27 luglio prossimo. Per il momento da Olimpia è tutto, Piera. Grazie al nostro Dario Ricci. Sia la crescita, ma non a quella finanziata con i prestiti. La cancelliera tedesca Angela Merkel parla al Parlamento tedesco e insiste sul freno ai debiti e sulla crescita basata sulle riforme strutturali come pilastri della strategia anticrisi europea. Non ci sono strumenti miracolosi, dice la Merkel, e gli eurobond non sono sostenibili. Queste dunque le parole di Angela Merkel, ma nelle ultime ore ad animare il dibattito in rete soprattutto non sono le parole, ma il look di un'altra politica. Parliamo di Hillary Clinton. 26 o 64 anni, qual è l'età che permette ad una donna di mostrarsi in pubblico senza trucco? Il dibattito, online e non solo, è aperto, scatenato dal segretario americano Hillary Clinton che, dopo essere stata fotografata in un locale con una birra in mano, è stata pizzicata questa volta in un'occasione ufficiale senza belletto e con un paio di occhiali dalla montatura nera. Quando è partita la corsa allo sberleffo, lei ha replicato: «Che male c'è? Ho 64 anni e posso scegliere di non truccare». Prima di lei la corsa era stata alle immagini della 26enne, altrettanto al naturale, cantante italo-americana Lady Gaga. Per il suo compleanno aveva postato sul suo profilo Twitter una foto di lei in cui appare senza trucco. Cade un altro tabù? Negli States c'è già chi parla di strategia elettorale per la Clinton. Ma fuori di polemica la domanda resta: donna potente, intelligente, non basta? O ancora, chi in Europa in queste ore pensa più all'ombretto della cancelliera Angela Merkel o allo spread che da lei dipende? O in Italia all'acconciatura di Susanna Camusso? E infine, per le comuni mortali, a 64 anni o a 26 che siano, truccarsi quando smette di essere affari d'altri? Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due, forse tre bombe in Siria, oltre 40 i morti, sono soprattutto impiegati che andavano al lavoro e bambini che andavano a scuola. Passera, disagio ampio, a rischio la coesione sociale, la Marcegaglia, sbloccare subito i debiti che la pubblica amministrazione ha con gli imprenditori, tema che sta strangolando le imprese. E ripartiamo in questa seconda parte di GR24 dall'inchiesta sul calcio scommesse. Raffaele Loiacono, Roberto Sblendorio e Alberto Savarese sono i tre capi della tifoseria barese arrestati dai carabinieri di Bari nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse. Gli ultra minacciavano i calciatori affinché facessero perdere alla squadra alcune partite. L'associazione Maglia Biancorossa è nata per tutelare i calciatori del Bari e i tifosi danneggiati dall'inchiesta stessa. Al microfono di Katia Caramelli, l'avvocato Francesco Paolo Sisto. L'associazione è nata sotto il duplice profilo. Gli ex calciatori del Bari, alcuni molto di rilievo, vedevano questo fango schizzare sui colori biancorossi sulla loro stessa immagine, ed è nata anche da numerosissimi tifosi che, abbonati sia allo stadio sia alle pay tv, vedevano ovviamente frustrato il corrispettivo fra vedere sport e invece vedere trucchi. Questo nasce anche per restituire alla città e comunque al calcio un impeto di, come posso dire, chiarezza, di trasparenza, di legalità in nome dello sport. È chiaro che noi ci siamo costituiti persona offesa nei procedimenti penali, abbiamo l'intenzione anche di richiedere il risarcimento del danno che è stato arrecato, sia danno d'immagine sia danno puramente patrimoniale, e di intervenire anche in affiancamento alla società del Bari. Oggi ci sono state queste misure cautelari, resta però il fatto contestato inquietante, cioè diciamo che il calcio scommesse si rivela una fonte di reddito assolutamente unica. Prendere atto che anche in queste categorie di calcio allo stato puro o di adrenalina calcistica allo stato puro vi sia il sospetto, che è culminato qui in una misura cautelare, che vi fossero trucchi e inganni, fa veramente male. Guerra fra bande in pieno centro a Perugia, con spari e coltellate per il controllo dello spaccio di droga. In città sono arrivati anche rinforzi dalla polizia di Firenze. Il sindaco di Perugia, Vladimiro Boccali, intervistato da Francesco Riccardi. Io ho fatto, diciamo, tutti i miei passi anche con una certa forza per dire non potete lasciare che una città per 45 minuti è in balia di 20 persone che si stanno rincorrendo, che è una cosa che è inaccettabile, non si era mai vista a Perugia, e per quanto mi riguarda non sono più disponibile neanche un decimo di quello che è successo a tollerare. Sono stati consentiti arrivi in Italia senza controllo. Queste ore il Presidente nazionale dell'ANCI sta discutendo con il Ministro degli Interni perché vogliono scaricarci quelli che avevano chiamato emergenza profughi nelle nostre città, senza che questi abbiano un sostegno da parte del governo, niente, tutte comuni. Sono entrati una quantità di cittadini fuori controllo e in queste ultime settimane, con l'intensificarsi dell'attività di repressione e di controllo delle forze dell'ordine, si stanno riorganizzando, per cui è scattata da qualche settimana questa guerra per bande. Da Perugia ad un piccolo paesino in provincia di Pordenone, che sta facendo i conti con il voto di domenica, Cimolais, è stato eletto sindaco Fabio Borsatti, un finto candidato che era nelle liste solo per fare un favore ad un amico. Sentiamolo al microfono di Lucio Bondì. È successo che il mio amico Gino Bertolo, che aveva posto la faccia per fare il sindaco di un piccolo paese della Valcellina, quando ha avuto il sentore che la lista uscente, o meglio ancora il sindaco uscente, avrebbe preferito un commissariamento, ha chiesto a me se ero disposto ad accettare un primo piano di una lista civetta. Come ho un buonissimo rapporto con Gino, io ho detto subito di sì. Io non volevo diventare sindaco, in poche parole. Desiderato che diventasse sindaco Gino, addirittura io non ho neanche votato. Però adesso lei dice che non si vuole dimettere. No, io non mi dimetto, scherziamo, ma si figuri, io non posso rinunciare, ma per non deludere i miei paesani. Mi auguro di portare avanti il nostro programma, insomma. Ma lei ha portato un programma? Io non ho fatto nessun programma, ho qualche idea in testa, non grandissime idee, e si fa quel che si può. La Ferrari archivia il primo trimestre con ricavi che arrivano a 556 milioni, più 13,2%, e 1.733 vetture consegnate alla rete, con un aumento dell'11,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ed ora il cinema. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani... Ecco, forse l'avrete riconosciuto, stiamo sentendo un brano del film Le mani sulla città di Francesco Rosi. Al regista e sceneggiatore è stato attribuito il Leone d'Oro alla carriera della 69esima mostra del cinema di Venezia. La mostra si terrà dal 29 agosto all'8 settembre. E debutta oggi un nuovo social network dedicato a chi ama i libri. Sarà presentato domenica al Salone del Libro. Ce ne parla la nostra inviata a Torino. Si chiama Club Dante, del nuovo nato nell'ambito dei social network per gli appassionati lettori. Come altre piazze virtuali, per esempio Anobi, permette agli iscritti di scambiarsi consigli di lettura, fare le proprie recensioni, trovare persone con gusti affini. Ma, ed è qui la novità di clubdante.net, mette in contatto lettori e scrittori, come spiega uno dei fondatori, Bruno Arpaia. Cerchiamo di mettere insieme scrittori e lettori che si scambiano consigli di lettura. È un grande passaparola qualificato sulla lettura e sulle narrazioni. Più di 250 autori italiani e di lingua spagnola hanno accettato di raccontare che libro hanno sul comodino e cosa consigliano. Dal giallista Donato Carrisi a Sandro Veronesi, da Roberto Saviano a Carlo Lucarelli, e fra i narratori in spagnolo Luis Sepúlveda e Javier Cercas. Per un totale di 3.000 consigli d'autore, giusto per iniziare, disponibili sia in italiano che in spagnolo. I contenuti del club, che sarà presentato ufficialmente qui al Salone del Libro di Torino, sono visibili a tutti, ma se si vuole commentare o postare le proprie recensioni è necessario necessario iscriversi. www.clubdante.net. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E vi ricordiamo che Radio 24 trasmette in diretta alcuni programmi proprio dal Salone del Libro di Torino. Gli studi sono al Padiglione 2 accanto alla Sala Blu. Il prossimo programma in diretta da Torino è Voi siete qui alle ore 16. E noi siamo alla pagina sportiva, attesa per la conferenza stampa alle 14 a Milanello del difensore del Milan Alessandro Nesta. Il suo futuro è in bilico fra il club di Via Turati e il trasferimento negli Stati Uniti. E ieri sera si è conclusa l'Europa League con la vittoria dell'Atletico Bilbao. L'allievo ha battuto il maestro regalando all'Atletico Madrid la seconda Europa League degli ultimi tre anni e alla Spagna il trofeo che consola solo in parte dopo il suicidio di Real e Barcellona. È l'Atletico Madrid di Simeone a fare festa, piangono i baschi di Bielsa che sognavano un successo storico e si sono dovuti arrendere nella finale di Bucarest allo strapotere di Radamel Falcao, centravanti colombiano che agiterà i sonni delle big di mezza Europa già a partire dal prossimo mercato. Falcao ha messo due sigilli sulla Coppa nella prima mezz'ora, due reti straordinarie di sinistro scherzando la difesa dell'Athletic e toccando la quota incredibile di 12 centri in questa edizione dell'Europa League, 32 in tutta la pur breve carriera. Il 3-0 l'ha realizzato nel finale Diego, vecchia conoscenza della Juventus, riciclatosi a Madrid. Atletico in paradiso, ma con l'incubo di perdere presto il suo eroe, perché il presidente ha detto che Falcao potrebbe finire sul mercato, costa almeno 40 milioni di euro, ma visto all'opera in questa finale non solo, bisogna dire che li vale davvero tutti. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi lascio allo speciale giro. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci in regia Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.